Non dobbiamo confondere la meta con un'emozione. Emotions, feeling good, come and go. Perché le emozioni, questo di sentirsi bene, è una cosa che va e viene. But what we're developing is an attitude. Quello che stiamo sviluppando è un atteggiamento. A disposition. Una disposizione. A disposition of goodwill. Una predisposizione, diciamo. Un atteggiamento di benevolenza. So it doesn't matter how we feel. Quindi non importa come ci sentiamo. We might feel tired, we might feel depressed, it doesn't matter. Potremmo sentirci stanchi o depressi, questo non importa. We put these feelings to the side. Li mettiamo da parte, questo sentire, questi sentimenti. We gently park them like a car. Come se li posteggiassimo delicatamente, come posteggiassimo una macchina. See, we're not suppressing them with aversion or fear. Se non li stiamo sopprimendo con avversione o paura. We're just not paying attention to them. Veramente non gli prestiamo attenzione. And our attention is simply on these mental acts of goodwill. La nostra attenzione è semplicemente su questi atti mentali di benevolenza. And we go through various categories. E quindi ci riferiamo a diverse categorie. So at the top of the page you will see the categories of i nostri benefattori. Quindi vedete in alto sulla pagina c'è l'elenco delle categorie, quindi la prima è portiamo alla mente i nostri benefattori. So it's easy to offer our goodwill to people who helped us. È facile offrire la nostra benevolenza alle persone che ci hanno aiutato. Because we feel gratitude. Perché sentiamo della gratitudine. And then there's le persone care. Ci sono le persone care. And then amici and colleghi. And then there's persone neutrali. So these are people whom we see but don't know. Persone neutrali sono le persone che vediamo ma che non conosciamo. Neighbors, people we travel with. Per esempio i nostri vicini o le persone con cui viaggiamo. But we offer them the same quality of goodwill. Ma offriamo loro questa stessa qualità di benevolenza. And then we can offer it to ourselves. E poi lo possiamo offrire a noi stessi. Sometimes we have a lot of resistance to doing that. A volte abbiamo molta resistenza nel farlo. We might feel a lot of self-aversion, self-hatred. Perché possiamo trovare un'avversione per noi stessi, un odio per noi stessi. So when those feelings come up, again we just put them to the side, you see. Quindi di nuovo quando sorgono questi sentimenti li mettiamo da parte. So it doesn't matter how we feel about ourselves, we still aim these goodwill messages towards ourselves. Quindi non ha importanza come ci sentiamo verso noi stessi, semplicemente noi miriamo questi buoni sentimenti verso noi stessi. And then we can bring somebody to our minds whom we find difficult. Poi possiamo portare alla mente una persona che troviamo difficile. And then we can begin to offer our goodwill more generally. Possiamo offrire in modo più generale la nostra benevolenza. To each other, gli uni agli altri, and then to all the people in all our neighbors. Tutti i nostri vicini. So there you can relocate to where you live. Quindi possiamo mentalmente spostarci al nostro luogo di residenza. Yeah. To our city, to all the people of Europe. Nel nostro paese, nei popoli d'Europa, people on earth, and then to everybody, to all beings in all directions. You see. Poi a tutte le persone della terra, poi a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And we just gently repeat these phrases, you see. E noi molto dolcemente, delicatamente ripetiamo queste frasi. So we can go through this, and you can read these benedizioni. Just for yourself. E quindi voi potete proprio possono ripetere queste quattro benedizioni per conto vostro. Yeah, this is only, we're only doing the four blessings at the top, le quattro benedizioni. Quindi noi faremo solo queste quattro benedizioni. Yeah, just that top. Yeah. Solo questa, la prima parte, diciamo, questo mm-hmm. in alto. So, just bringing to mind people who've helped us in our lives. Quindi portiamo alla mente le persone che ci hanno aiutati nella vita. And just gently repeating to yourself, che voi possiate, can you say? Sì, e poi semplicemente ripetete voi stessi, che voi possiate essere al sicuro, che voi possiate essere in buona salute. Che voi possiate essere felici. Che voi possiate vivere appagati, in pace con il mondo. We can bring people who are near and dear to us. Se portiamo alla mente le persone care. So as you picture them in your mind, you can direct your goodwill towards them, you see. Mano che ve le immaginate nella mente, potete mandare nella loro direzione questi sentimenti di benevolenza. Whether it affects them or not is not important. Che possa avere un effetto su di essi non è importante. What's important is developing that attitude of goodwill within us. Quello che è importante è sviluppare questo atteggiamento di benevolenza dentro di noi. We can bring to my friends, amici e colleghi. Siamo alla mente amici e colleghi. Everybody wants to be safe, safe from dangers outside and dangers from within ourselves. Tutti vogliono essere al sicuro, sicuri dagli pericoli che sono fuori di noi e dentro di noi. Everybody wants to be well. Tutti vogliono stare bene. Everybody wants to be happy, not have all this stress. Tutti vogliono essere felici, non avere tutto questo stress. And to live a life which is at ease. Tutti vogliono vivere una vita piena di agio, di agio. So we can bring now to mind people whom we see but don't know. Possiamo portare alla nostra mente le persone che abitualmente vediamo ma che non conosciamo. Directing our goodwill now towards ourselves. Adesso indirizziamo questa benevolenza verso noi stessi. And you may find, if you find it difficult, you may find it helpful to put your hand on your own heart, you see. Se lo trovate difficile, può essere d'aiuto mettere la mano sul cuore. And into the heart of goodwill we can bring somebody we find difficult. E dentro questo cuore di benevolenza possiamo portare qualcuno che troviamo difficile. Not that they are difficult, just that we find them so. Non che necessariamente siano persone difficili, ma siamo noi che li riteniamo tali. Now we can develop our goodwill in a more general way. Adesso possiamo sviluppare la nostra benevolenza in un modo più generale. First of all, to each other, our spiritual companions. Innanzitutto possiamo dirigerla verso gli uni, verso gli altri, i nostri compagni spirituali. Che noi possiamo. Noi possiamo essere al sicuro, che noi possiamo essere in buona salute, che noi possiamo essere felici, che noi possiamo vivere appagati in pace con il mondo. Now we can relocate to where we live. Adesso possiamo mentalmente trasferirci da dove abitiamo. Offering our goodwill to our neighbors. Possiamo offrire la nostra benevolenza ai vicini. Moving from there till we've covered the whole of our city or district. Poi ci spostiamo da lì e copriamo tutta la nostra città, la nostra regione. All the people in our country. No, tutte le persone nel nostro paese. To all the peoples of Europe. Tutti i popoli dell'Europa. To all people on earth. A tutti i popoli della terra. and to all beings in all directions. E a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And we can end our practice with a little chant. Possiamo terminare la nostra pratica con un piccolo canto, una recitazione. It's not written here, but it's very simple. Non è scritta, ma è molto semplice. Sabbe satta sukhita hontu. This means may all beings be happy. Questo significa che tutti gli esseri possano essere felici. And then sadhu three times. E poi tre volte sadhu. Sadhu means well done. E sadhu significa ben fatto. Bravo, brava. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. Can we hand up the first bit of paper? We can bring that back here. They don't need it.